9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. Oggi il tono con cui vi saluto è un po' più basso del solito, perché quello che è avvenuto ieri, pochi minuti dopo la nostra trasmissione dedicata con tono molto stentoreo, di quelli che usiamo deliberatamente quando ci occupiamo del fisco e ci occupiamo della iniqua simmetria della macchina fiscale nei confronti di contribuenti e piccoli imprenditori, artigiani e commercianti che sono vessati e che hanno uno Stato che pretende per sé un rispetto delle norme che non estende invece nel suo rapporto con i contribuenti, ci ha poi indotto a prenderci la testa tra le mani, perché quando pochi minuti alla fine della nostra trasmissione l'agenzia ha iniziato a battere la notizia di Giuseppe C, piccolo imprenditore di 58 anni che si è dato fuoco di fronte all'agenzia delle entrate di Bologna, ci siamo tutti interrogati, io per primo, se non esageriamo a volte con i toni. Eppure vi dirò la verità, no, non esageriamo con i toni secondo me, anzi tentiamo di scuotere, tentiamo di raccontarvi il dramma che decine, sottolineo, non è una reiterazione retorica, è la realtà di questo paese. Decine e decine di migliaia di piccoli imprenditori avvertono intorno a sé di fronte a un debito fiscale e ad accertamenti, a pretese esecutive, a procedure che salgono nel mentre il mercato e gli ordini si restringono, nel mentre la difficoltà di pagamento da parte dei propri clienti e fornitori si alza per tutti, nel mentre ovviamente bisogna pagare i collaboratori e pagare i contributi ai collaboratori. E quando si arriva ad atti pubblici drammatici come quello di ieri, cioè a darsi fuoco di fronte all'Agenzia delle Entrate, io mi chiedo se la vecchia idea che abbiamo lanciato e su cui torneremo con Bortolussi della CGA di un fondo per gli imprenditori alle soglie, a un passo dalla disperazione, il fondo non significa soldi pubblici per aziende che non devono stare in piedi, significa un servizio a disposizione di coloro che, persa la testa pensando di non potercela fare, a quel punto chiudono una parete di piombo invalicabile tra sé, il mondo e i propri cari e decidono di iniziare a pensare a gesti come quello di Giuseppe C. Un augurio ai suoi familiari, a lui la nostra piena solidarietà, e purtroppo crediamo di non sbagliare tornando a picchiare su questi temi. C'è il lavoro dipendente che sta male, che perde il lavoro, c'è una crisi che non è finita, una recessione che va giù, bisogna essere ottimisti perché c'è una parte d'Italia invece che sui mercati continua ad andare strepitosamente bene, con 22 punti di produzione industriale in meno, ma tornando a valori di export che sono quelli del pre-crisi. Ma non bisogna nascondere le realtà quando sono realtà di difficoltà, e quella del rapporto con l'asimmetrico stato del fisco è un punto dolente molto forte, di fronte al quale torneremo a occuparcene. Questo perché alcuni di voi hanno detto: avete esagerato, se soffiate sul fuoco ecco cosa succede. No, non dipende da noi, non dipende dal fatto che ce ne occupiamo dando voce ai tanti tra voi che ci mandano lettere. Tra l'altro oggi evito di leggere altre lettere con tanti altri casi che sono arrivati ieri, riprenderò da domani. Oggi mettiamo al centro della nostra puntata un'altra declinazione del problema italiano, ma siamo sempre lì però, cioè il problema di un paese che non mette più in condizioni le imprese che sanno fare il loro mestiere, che portano a casa i risultati, che stanno sulle filiere avanzate tecnologicamente, eppure per l'incapacità potremmo dire, oppure la mancanza di volontà potremmo dire, comunque di fatto dello Stato, in questo caso è lo Stato che deve formulare gli incentivi su un particolare settore, quello delle energie rinnovabili, ecco che alla fine ci sono degli imprenditori che mollano la presa. Tra l'altro, segnalazione di stampa internazionale, oggi su Wall Street Journal trovate a pagina 17 una storia che è del tutto parallela a quella che vi raccontiamo oggi invece con i nostri ospiti in studio. La differenza è che naturalmente Wall Street Journal lo leggono in tutta Europa e in tutto il mondo, non un po' più direttore di quanto io abbia ascoltatori, anche se qui non ce la passiamo siamo male. E a pagina 17 del Wall Street Journal di oggi trovate un articolo dal titolo Big Labor, Little Italy, e narra la storia di due imprenditori, che sono due imprenditori giovani ma sono di terza generazione, la loro è un'azienda che ha 80 anni, si chiamano Cesare e Donata Novellone, e descrivono per 1, 2, 3, 4, 5 colonne al giornalista del Wall Street Journal, Anne Jolis, come in Italia sia molto difficile far lavoro, per continuare a fare impresa, per le leggi del lavoro, per i contributi, per il fisco, per gli incentivi che ballano, sono anche loro nel campo dell'energia e così via. Questa è l'immagine con la quale dobbiamo fare i conti, e oggi lo facciamo con i nostri due ospiti in studio, che passo subito a presentarvi, perché Luciano Brandoni, che è il presidente della Brandoni Solare Spa, è presidente di Confindustria Energia di Ancona, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Luciano Brandoni ieri al Sole 24 Ore ha detto: io emigro per burocrazia, è vero o no? Sì. Ecco, adesso gli chiediamo di commentarlo. L'altro ospite con noi è Pietro Colucci, che avete sentito un paio di settimane fa. Pietro Colucci è anch'egli un imprenditore nello stesso ramo, è past president di Assoambiente, l'associazione di imprese e servizi ambientali di Confindustria, e insieme a lui commenteremo insieme il come e il perché Luciano Brandoni arriva a questa determinazione e tutto il quadro delle misure energetiche. Questo è, lo abbiamo detto la volta scorsa, uno delle leve prioritarie della crescita del nostro paese. Il governo Monti, diciamo, non lo considera proprio prioritariamente così, e il risultato è che poi il tempo passa. Grazie quindi e buongiorno a Pietro Colucci. Buongiorno. Allora, Brandoni, se ne va davvero? Ma i presupposti ci sono tutti. Se noi andiamo a considerare quello che abbiamo subito gli ultimi 14, 15, 16 mesi, cambiato il conto energia 7 volte, se noi andiamo a considerare che... Conto energia, lo diciamo a chi non è un tecnico, è il quadro degli incentivi pubblici che servono, poiché naturalmente i costi delle diverse energie non sono uguali a quelle fossili, ma il quadro è quello appunto di dare una mano in maniera che si raggiunga il più possibile una maggior resa. E però il problema è che questo conto energia degli incentivi varia come una specie di tip-tap. Benissimo, ma non è che varia come un tip-tap con dei tempi scadenzati, varia con data retroattiva, varia nei momenti in cui ci sono ordini in cassaforte, quindi pronti, varia nei momenti in cui l'impresa, gli imprenditori, ma non sono solo io, sono tutti quelli del mio settore che producono seriamente pannelli fotovoltaici in Italia, gli vengono cambiate le regole sotto mano. Esempio eclatante: lo scorso anno prima del 3 marzo eravamo tutti ricchi di ordini per anno completo 2011, a seguire 2012-2013 opzione sugli ordini. Improvvisamente 3 marzo decreto Romani dice stop a tutto. Ci siamo trovati da ricchi il 2 marzo a poverissimi del 3 marzo. Questo non può essere uno stato di diritto, non può essere quello che poteva essere una crescita anche per noi. Eravamo in pieno investimento, portando la nostra linea al raddoppio della produzione, quindi avendo illuso anche diverse decine di persone, giovani soprattutto, che avremmo implementato la fabbrica, l'azienda, avremmo soprattutto creato un centro di ricerca a Castelfidardo. Noi siamo nelle Marche, siamo piccolini, però doveva essere di riferimento, perché da lì eravamo collegati praticamente con il mondo. Questo non è stato possibile realizzarlo in funzione del blocco che c'è stato. E come se lei, io ho avuto modo di dire proprio a questi microfoni di Radio 24 a suo tempo, manda una macchina a 200 all'ora, perché fino a quel momento con il salvacoto, tutto quello che vuole, la stavamo mandando a 200 all'ora in autostrada, improvvisamente o trova un muro o si trina un freno a mano. L'ipotesi più recente: o si schianta o si rovescia, o comunque di danni ne fa tanti. E così è successo, e ci sono i primi problemi ad oggi, che improvvisamente riescono con queste bozze, oggi dico qualche giorno fa, più o meno ad arte 5-6 bozze che escono dai vari siti, dalle varie cose, dalle varie situazioni, quindi qualcuno le ha scritte. Ci ipotizza anche che dal 1 luglio andremo a registro. Bozze sempre su diverse ipotesi di rimodulazione del conto energia. Non sappiamo quale è giusta, quindi o non le facciamo uscire e ne discutiamo separatamente, o se le dobbiamo far uscire dobbiamo solo sapere quali sono le regole. Ma la problematica è una: se io dal 1 luglio devo fare iscrizione al registro, come si sta ipotizzando, e lasciamo perdere il prezzo e le condizioni, fino al 30 dicembre, perché 6 mesi chiede il registro per attuarle e per darti autorizzazione, cosa faccio fare alla mia azienda? Certo, come si fa a investire in un quadro così ballerino? Questa è una domanda che io farei al governo e che ha scritto quegli articoli. Colucci, che dice? Sorrido perché lo scorso anno e io e l'ex ministro dell'ambiente Doronchi abbiamo pubblicato un libro che si chiama Vento a favore, e abbiamo scelto come esergo il motto di Seneca: non c'è vento a favore per il marinaio che non sa dove andare. Mai più, mai esergo è stato che più... Che naturalmente non si applicava agli autori, ma alla situazione del paese. Del paese, ovviamente. Diciamolo, perché sennò... Il vero tema è che noi non abbiamo un punto d'atterraggio su questo. Il governo precedente, anche questo, non ha saputo prevedere il fenomeno della green economy, cioè l'esplosione di un comparto che ha fatto, che ha giganteggiato a livello mondiale, ma ha fatto anche tanti nuovi occupati a livello nazionale. Dei 600.000 nuovi posti di lavoro creatisi nel 2011, 240.000 sono relativi alla green economy. Non ha saputo prevederlo, non ha saputo governarlo e adesso non sa che pesci prendere rispetto a una situazione effettivamente critica, di scarsità di risorse complessive, di polemiche rispetto al fatto che il conto energia viene in parte scaricato sulle bollette degli italiani, senza rendersi conto che in realtà questo andrebbe valutato nell'ottica dei costi e benefici nel suo complesso, cioè quanto vale, quanto ha significato in termini di riduzione del costo dell'energia per le imprese e per le famiglie italiane il fotovoltaico in Italia. Hanno pubblicato in questi giorni il libro di Realacci, Green Italy, un libro molto carino, tra l'altro con prefazione di Lobello e postfazione di Meo Martini, quindi che non sono proprio due imprenditori della green economy. C'è un dato oggettivo che emerge: l'energia elettrica ad oggi un giorno tipo costa 78 centesimi la mattina e 91 centesimi il pomeriggio alle 18. Cosa significa questo? L'impatto del fotovoltaico, che viene prodotto sostanzialmente nelle ore del giorno in cui c'è sole, rispetto ai costi dell'energia, ha un effetto deprimente, compressivo del prezzo dell'energia. Quanto vale questo rispetto ai 326 terawattora che si consumano in Italia all'anno? Se facciamo un calcolo, il ministro Clini l'altro giorno al convegno in cui ha lanciato gli stati generali della green economy ha fatto un ragionamento che riguardava la tutela del territorio, quindi sempre un tema green economy non dissimile da quello di cui stiamo parlando. Quest'anno l'alluvione in Liguria è costato allo Stato, alla Liguria, 1,5 miliardi di euro. Se lo Stato ne avesse investiti sapientemente 2 tra nuovi investimenti e manutenzione dell'esistente, ne avrebbe grosso modo risparmiati 6. Tra minori costi di danni, certo, come questo e indotto indiretto. Allora il ragionamento va fatto in modo più chiaro. È inutile continuare a dire che il conto energia costa agli italiani. Costa, ma quanto è il ritorno? Occupazione, no, indotto, il problema è minori che costi. L'impressione che stante l'organizzazione delle competenze economiche nell'architettura istituzionale italiana, al di là dei periodi in cui non c'è stato un enorme allarme sui saldi, periodi che oramai si perdono dietro la memoria, perché negli ultimi anni è sempre stato così, alla fine la variazione del conto energia è sempre più dipesa dai saldi di cassa da realizzare per anno e le risorse che c'erano, più che da un conto pluriennale fatto con matrici di input output nazionale, eccetera eccetera. E quando si trattava di tirare il freno, ovviamente si diceva: primo, l'esperienza ci insegna, qui mi rivolgo a Bandone, che intanto noi nel fotovoltaico siamo pure assemblatori, perché in realtà la tecnologia eccetera eccetera c'hanno i tedeschi, eccetera, i cinesi copiano, ma noi siamo pure assemblatori, quindi questa roba ci fa pure alzare la quota di import in bilancia commerciale dagli altri e ci rende più debitori, quindi insomma, per dare i soldi agli assemblatori tanto vale non darli, quando si trattava di tagliarli ovviamente per il fotovoltaico. Dopodiché si dice: sì, d'accordo il ragionamento, ma tanto quello che conta poi il prezzo dell'energia lo facciamo, visto che è un mercato in cui non ci sono riserve stoccabili, si fa il costo marginale si fa al momento di picco entrano in campo naturalmente gli impianti che non hanno intensità e non hanno concentrazione durata nel tempo, come quelle rinnovabili, eoliche o fotovoltaico, e quelli a quel punto impongono il loro prezzo. Quindi voi potete prendere tutti gli investimenti che volete, ma in realtà, per quanto sia nel tempo il contenimento del costo energia, il picco si fa sempre naturalmente su chi interviene nei momenti in cui serve di più. Come si risponde a queste due obiezioni, Brandone? Di fronte al... qui non si tratta di dare la risposta tecnico-scientifica, si tratta di dare una risposta che consenta di modulare pluriennalmente gli incentivi, perché questo è il motivo per cui lei se ne vuole andare. Certo. Ovviamente sì. Allora, la prima, un'anteprima volevo fare: non c'è nessuna produzione di energia elettrica che non sia incentivato. Questo che sia ben chiaro per tutti, perché probabilmente per qualcuno non lo è chiaro o lo vuol sembrare non tale. Per la domanda che mi faceva prima, noi siamo dei meri assemblatori, lei ha ragione, ma attenzione, noi abbiamo nel cassetto, insieme ad altri amici costruttori come noi di pannelli fotovoltaici, quindi assemblatori, abbiamo dei costruttori di celle, abbiamo nel cassetto una neocostituita azienda con sede a Milano che doveva partire lo scorso anno per costruire celle, quindi fare la filiera completa. Tenga presente che siamo in grado di assemblare un gigawatt di potenza l'anno, quindi i costruttori, quelli veri italiani, ci sono e possono fare la loro parte. Un gigawatt, non saranno i 5-6 gigawatt degli asiatici, ma però un gigawatt in Italia è un numero, e siamo assemblatori. Eravamo pronti, tant'è vero che c'è la società costituita, 16 aziende italiane di costruzione fotovoltaica, made in Italy, insisto, made in Italy, hanno costituito una società che è rimasta lì, con la collaborazione di una società oltreoceano, nella quale c'erano anche delle operazioni di innovazione, alta innovazione. Ci era stato detto sempre: investite, diventate grandi, perché altrimenti sarà pericoloso, vi supereranno. Noi l'abbiamo fatto. Cosa ci ritroviamo? Aver costituito una società, e meno male che non abbiamo comprato le macchine e le strutture per fare questa azienda, perché altrimenti eravamo di nuovo una delle società che andavano liquidate. Questo è il problema. Ancora oggi, le dico un esempio stupido, mio personale, noi siamo qui a Mostra Convegno presenti con un brevetto che è costato non poco, glielo posso garantire, lo abbiamo presentato in anteprima martedì scorso, brevetto probabilmente vanificato, perché se questo è il proseguo del conto energia, noi abbiamo lavorato inutilmente, abbiamo fatto lavorare i nostri ingegneri, le nostre università con cui collaboriamo, i nostri ragazzi, e dici: guardate ragazzi, che avete scherzato, avete sbagliato tutto, non vi siete resi conto che non serviva a niente, e si guardano verso di noi che dirigiamo le aziende e dici: ma allora tu cosa hai capito, cosa stai a fare? E allora io mi domando: cosa sto a fare in Italia? Cioè, posso crescere o non posso crescere? Non vogliamo noi sussidi, vogliamo certezze, che è una cosa diversa, che è quello che ha fatto scatenare l'articolo di questo, del giornale di ieri, incontrando il direttore napoletano proprio all'Istau di Ancona. Questa è stata, era la domanda che avevo fatto in pubblico quando lui era lì sabato scorso. Quindi la mia è una cosa semplicissima: per crescere, per innovare, per fare questo, abbiamo bisogno di certezze. Poi i soldi ce li troviamo noi, in qualche modo li troviamo, le banche ci assistono, le banche sono contente di assisterci se abbiamo dei progetti nuovi, perché dove vanno a investire oggi? Che non si investe sul mattone, non si investe, le parti non si investe, cosa vuoi che facciano? Faranno degli investimenti su quelle aziende che hanno delle idee, che hanno delle innovazioni. Ma se le innovazioni le portiamo sul mercato e non riusciamo poi a capovolgere, non riusciamo poi a far capire che stiamo creando posti di lavoro, non riusciamo a far capire che noi stiamo facendo una cosa che probabilmente porterà grandi frutti, se questo non può essere fatto, quale altra arma ci rimane? Considerando anche che abbiamo la tassazione più alta d'Italia, la burocrazia più alta d'Italia, per qualsiasi cosa burocraticamente noi siamo, per così dire, delinquenti, per non dire quelli che fanno fotovoltaico, che sono quelli che si portano via i soldi di tutti. Non è assolutamente vero, c'è qualcuno che di soldi ne porta via molti più di quelli che dovrebbe, probabilmente in proprio, non lo so, io non è questo il mio modo di fare, di pensare, e non sono io a dover giudicare. Quello che posso dire è che la regolamentazione del fotovoltaico è stata fatta da un governo, i conti, le condizioni sono state fatte dai governi, non siamo stati noi che abbiamo dato i numeri per fare questo, ad auto-organizzarvi, per così dire. No, assolutamente ne stiamo subendo, abbiamo subito una volta, abbiamo subito due, adesso dobbiamo dire chiaramente se vogliamo proseguire o no. Mi fa specie sentire la Danimarca che ieri o l'altro ieri ha dichiarato che 100% nucleare per 2060-2070 mi pare, al 2050 arriveranno 30%, mi fa ancora più paura altri paesi energia verde, ho fatto loro hanno rinunciato alla loro centrale, non hanno rinunciato, però loro stanno facendo questi investimenti. E noi che onestamente ci siamo, c'è stato il referendum che ha detto che probabilmente il nucleare non facciamo, se vogliamo farlo in altro modo va bene, che poi ci siano, non mi meraviglierebbe che domani arrivasse qualcuno che direbbe: guardate che il nucleare lo facciamo lo stesso, magari non qui, no, ma lo facciamo questo, un po' guardi, lontano, non credo più che, non è questo... che sia nell'orizzonte possibile. Io poi posso aggiungere da sostenitore da due referendum, ma io non sono voto, contro il nucleare, magari, ci mancherebbe, ma non credo, questo è il nucleare, è un capitolo chiuso in Italia, è inutile... Io non sono contro, però dico che se ci sono altre caratteristiche quantomeno dobbiamo saperlo. Noi non abbiamo investito pochi cento, ho capito, ma Colucci, secondo lei queste nuove divergenti versioni delle ipotesi di ristrutturazione e revisione del conto energia a cosa si devono? A incertezze, a presenze negli uffici tecnici dei ministeri di anime diverse, diciamo così? Beh, senz'altro, diciamo, è quasi ufficiale, c'è una divergenza di opinioni fra ambiente e sviluppo, che sono quelli che di concerto devono riconcepire le norme sulle fonti rinnovabili. Tenga conto che mentre noi parliamo del quinto conto energia, cioè in due anni due leggi, due norme che regolino una sola fonte, che è il fotovoltaico, tutto il settore è in attesa da un anno del decreto regolamentativo di tutte le altre fonti, cioè biomasse, eolico, biogas, eccetera. E questo significa evidentemente non c'è accordo. Il tema è, certamente il ministro dell'ambiente è più facile, quindi è diventato l'idolo degli operatori della green economy, perché ovviamente, essendo un tecnico del ministero che conosce bene la realtà, ha capito che la green economy è forse uno dei veri fattori moltiplicativi della crescita che in Italia sono concepibili, e spinge su questo. Lo sviluppo economico ovviamente ha le finanze, la tesoreria dello Stato che gli tirano la giacca, perché le risorse sono chiaramente scarse, e il vecchio conto energia ha eroso gran parte di queste risorse impegnando 6 miliardi l'anno sulle tariffe nazionali, quindi a famiglie, caricate su famiglie e imprese per i prossimi 20 anni. Quindi il governo ha fatto la sua parte, e devo dire che il risultato è venuto. Noi l'anno scorso siamo stati il primo operatore mondiale per installazioni di fotovoltaico, raggiungendo i 12,5 gigawatt installati nel nostro paese. Abbiamo di fatto raggiunto l'obiettivo del 2020, cioè del 20% di produzione di energie rinnovabili, con 10 anni d'anticipo. Quindi su questo va dato atto al governo, non bisogna sempre gettare la croce addosso alle istituzioni. Il tema vero è che, dimostrate che questo è un grande fattore moltiplicativo della crescita, bisogna regolare questo fenomeno facendo sì che lentamente ma inesorabilmente si arrivi alla grid parity, cioè alla capacità per le rinnovabili di essere competitive con le fonti fossili, e quindi accompagnando un settore ancora per un poco, affinché questo settore poi cammini con le proprie gambe. L'obiettivo è questo, e deve essere questo, sia chiaro per tutti. Gli operatori della green economy devono mettersi in testa che gli incentivi sono solo l'abbrivio per far partire un settore che deve poi camminare con le proprie gambe. Su questo noi siamo, di questo siamo perfettamente consci, non è la richiesta brutale come al solito di sostegno e di sussidi, ma è semplicemente il quadro d'insieme di regole che valgano per tutti. Adesso andiamo in pubblicità, però il quadro, insomma, se io analizzo la questione da economista, mi verrebbe di dire che per la grid parity, per essere chiari, per chi non è un esperto del settore, ovviamente è un'equazione molto complessa, perché ovviamente il fatto di partire da costi di resa energetica analoga da fonti diverse, molto diverse, implica avere in testa, per un paese come il nostro, definire l'equazione di una grid parity implica avere in mente, primo, che siamo un paese più fortemente dipendente per il mix energetico che ci siamo dati dall'estero, e questa componente è praticamente tutta la parte di segno meno nella nostra bilancia dei pagamenti, quindi quella parte va diminuita. Secondo, bisogna avere in mente un quadro di evoluzione complessa dei prezzi sui mercati internazionali, in buona sostanza il petrolio da cui dipende il gas, visto che noi facciamo più di energia elettrica dal gas, molto più che altri paesi. Terzo, a quel punto bisogna, tra le altre incognite dell'equazione per calcolare la grid parity, bisogna mettere poi, bisogna fare una scelta di mix anche delle rinnovabili per raggiungere questo obiettivo. Quarto, siccome ovviamente nel tempo queste tre diverse ordini di variabili cambiano, perché cambiano i prezzi delle materie prime internazionali energetiche, perché nel tempo diminuisce la forbice di distanza del costo di resa energetica da fonti diverse, perché magari cambiano le valutazioni anche sui paesi da cui siamo dipendenti. Come vedete, questa equazione complessa, queste tre ordini di incognite varia, ma la mia opinione è che bisogna metterla nelle mani di uno che sappia far girare queste equazioni, cioè di un tecnico vero. Se noi lo facciamo dipendere ogni 6 mesi dai saldi di finanza pubblica da garantire, questa equazione va per definizione a farsi benedire, o no, Colucci? Qui c'è anche, non è soltanto un problema di saldi, è anche un problema di lotta, diciamo, patente ormai fra operatori, perché tenga conto che le centrali a turbogas, abbiamo eliminato il nucleare, sul carbone c'è una resistenza fortissima da parte degli ambientalisti fin quando le tecnologie di stoccaggio e di cattura della CO2 non saranno efficaci. Sono efficaci, ma comunque sono efficaci, ma puntata, sono costose, non la facciamo, sono efficaci costose, ma non le vogliono comunque. Siamo comunque a gas e rinnovabili. Le rinnovabili sono, come per il nucleare, quello che si sosteneva allora, una produzione nazionale, cioè che riduce l'importazione dall'estero, riduce la dipendenza dall'estero, che ad oggi vale l'85%. Questo si chiama parlare chiaro. Colucci dice c'è anche un problema ovviamente di contrasto tra filiere che hanno nell'impresa, certo, interessi diversi. La devo formare perché siamo in ritardo con la pubblicità. Eccoci, tornati in studio, stiamo parlando con Luciano Brandoni, che è presidente della Brandoni Solare Spa, un imprenditore quindi nella filiera del fotovoltaico, che ha detto: ma con questo conto energetico così ballerino degli incentivi, l'unica è andarsene, siamo pronti a farlo, non ne possiamo più. Stiamo commentando con Pietro Colucci, past president di Assoambiente di Confindustria, che a un certo punto ha detto anche poi una profonda verità. Naturalmente, siccome il contributo all'offerta elettrica nazionale viene da filiere diverse, ci sono anche interessi diversi che premono poi sulla politica, che però spesso non sa che pesci prendere, quindi dà troppe incertezze rispetto a chi deve realizzare investimenti che hanno un quadro pluriennale, come ovvio, di ritorno. Qui non è garantito, quindi oggi stiamo parlando di un altro aspetto, oltre a quello della pervasività amministrativa, dell'asfissia delle tasse, dei contributi, eccetera eccetera. L'incertezza nel quadro degli investimenti è un'altra delle condizioni che in settori che sono drive della crescita mondiale dovrebbero e potrebbero essere di più in Italia, ma che comunque abbiamo fatto parecchio, ma ci portano poi all'incertezza. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori. Vittorio da Napoli, prego Vittorio. Buongiorno, io lavoro anche in questo settore, sono un vecchio dipendente dell'Enel, vecchio, ho 45 anni, insomma sono 21 anni che lavoro in questo settore. L'imprenditore magari ha anche ragione, però io sono abbastanza dissonante. Gli incentivi erano troppo alti e devo dire che nessuno dice una cosa banale. Però lui non dice che fossero alti o bassi, lui dice che non si capisce quali oramai. Ha ragione, però lui da imprenditore ha capito perfettamente che il salva Alcoa ha ucciso il fotovoltaico, perché un livello dell'investimento del 32-33% gioco forza doveva portare a una riduzione dell'incentivazione e quindi a un quadro regolatorio molto ballerino. Molto ballerino. Ma perché se c'è stato un eccesso, perché deve essere ballerino? Se c'è stato un eccesso si dà un quadro di riduzione, ma stabile nel tempo. Ma questo perfetto, faccio allora l'obiezione. Giannino, se permette un minuto. Sì. Cosa si innesca? Poiché gli investimenti in fotovoltaico sono stati notevoli, sì. E apro una parentesi, gli investimenti a terra non andavano fatti, chiudo parentesi. Cosa succede? Succede che adesso il costo dell'energia, soprattutto per il mercato dei servizi di spacciamento, certo. Sono costi altissimi. E come no? Per i problemi che ci sono sugli assetti di rete. Ci sono adesso da fare. Questo lo abbiamo detto tante volte, che abbiamo avuto un quadro di concentrazione delle, se andiamo a vedere Puglia eccetera eccetera, se la rete dovesse alta tensione essere in grado davvero di mettere quella, ci sarebbero miliardi da spendere sulla rete, ma questo lo abbiamo detto, contribuisce tutto questo al problema. Banalmente voglio dire che ti prendi quello che ti danno e devi anche accettare qualche rischio da un altro punto di vista, perché se sei lungimirante, se fai l'imprenditore normalmente lo sei, ti rendi conto che qualcosa cambierà. L'ultimissima cosa, molte aziende nel fare i conti, dobbiamo renderci capire, molte aziende, non dico che chiudono, l'energivore sì, perché il peso della componente A3 sulla bolletta, sì, è arrivato al 20%. Come no. Quindi però la sintesi di Vittorio è: caro Luciano, non ti lamentare troppo, avete fatto per un certo periodo la pacchia, adesso inevitabilmente bisogna accettare questo ballo di restrizioni. Alberto da Milano, come la pensa Alberto? Sì, buongiorno, mi ricollego immediatamente. Ciao Luciano, sono Alberto, imprenditore fotovoltaico di un'azienda in Brianza, e credo tu mi conosca molto. Ciao. Bene, ma non voglio fare nome della mia azienda. Mi ricollego esattamente all'intervento del precedente ascoltatore per dire che le aziende non si sono assolutamente ingrassate del conto energia. Le aziende che hanno margini su questo tipo di produzione che sono più vicine al 5% che al 10%, e in questo momento sono più vicine allo 0 che al 5%, devo dire, non sono da demonizzare, perché in questo momento mi sembra che vengano prese le aziende, le industrie fotovoltaico come responsabili, anche partecipi di questo problema. Le aziende non ne hanno beneficiato. Il fotovoltaico erroneamente è stato trasformato in un derivato finanziario nel passato, e questo è stato il grosso errore, e non in uno strumento realmente finalizzato alla generazione di energia pulita, qual è lo scopo, quale doveva essere dall'inizio. Dico un'ultimissima cosa. Tutte noi aziende abbiamo fatto investimenti, ci siamo preparati per il futuro. Il Cavalier Brandoni l'ha fatto, tutte le altre nostre aziende, e ci conosciamo tutti quanti, siamo tutto sommato molto pochi, l'abbiamo fatto. Ci siamo preparati per un 2013, per un 2014. Noi in particolare abbiamo acquisito una commessa importante verso l'estero da 1,5 miliardi di euro, che avremmo tanto volentieri voluto eseguire dai nostri stabilimenti in Italia. Ma però, scusi, se riguarda l'estero, perché allora il conto energia dovrebbe avere un impatto su questo? Se mi lascia terminare. Per arrivare alla, diciamo, ad avere i benefici degli investimenti su cui ci siamo preparati, noi ovviamente dobbiamo costruire un ponte. Il ponte è quello dello sviluppo industriale che abbiamo cercato faticosamente negli anni precedenti di costruirci, di generare risorse per investire, aumentare le produzioni, assumere personale, fare ricerca. Ci è venuto a mancare 6-7 volte questo ponte, in questo momento viene assolutamente distrutto e quindi non riusciamo a trovare in Italia le risorse per costruire il ponte verso il futuro, che sia la ricerca, che siano commesse verso l'estero. Chiarissimo, chiarissimo Alberto, chiarissimo Alberto. Un commento al volo di Brandone. Allora, al signor Vittorio vorrei dire che la componente A3 si paga da tantissimi anni, tutti gli anni indietro che il fotovoltaico che c'era, dove è andata a finire questa somma? Chi ce l'ha? Chi l'ha usata? Qualcuno l'ha fatto. Questa è la prima risposta, però condivido e non da non confondere l'azienda che produce il pannello da chi fa impianti e fa speculazione finanziaria. Aspetti, perché se lei mi fa la risposta così telegrafica ed è ammirevole, però naturalmente deve immaginare che chi a casa non è un esperto di cose energetiche. Lo spiego io come è fatta la componente. Allora, sul chip 6, per così dire, o sulle finte rinnovabili italiane, sulla forte componente di sussidi, fonti assimilate, cioè fu una maniera, questo mi prendo io la responsabilità di dirlo, per calmierare la concorrenza all'Enel negli anni, creando una grande greppia, per così dire, pagata ovviamente nella componente bolletta da tutti, nella quale delle finte rinnovabili, ma assimilate a rinnovabili, godevano di forti incentivi per tenere buoni i concorrenti di Enel. Ma questo veramente affonda nei decenni questa vergognosa pratica a cui telegraficamente, come Brando gli faceva accenno, ed è ancora lì, non solo ci sono ancora 250 milioni l'anno che noi paghiamo per il decommissioning sul nucleare, sulla tariffa 3. Allora riprendiamo Brandone. Quindi stavo dicendo che le aziende come la nostra producono e assemblano pannelli, ma erano e sarebbero tuttora interessati a proseguire, fare ricerca, innovare e arrivare ai massimi livelli. Tenete presente che il signore che ha chiamato lo conosco molto bene, è uno che fa il nostro mestiere, anche con lui era uno dei soci per fare celle, quindi voglio dire, queste performance ci sono. Quello che a noi fa paura è la non correttezza delle regole dei giochi. Noi oggi investiamo, ci mettiamo i nostri soldi, siamo sicuri che possiamo proseguire? Questo è il problema. Ci devono, nessuno ci deve, però noi auspicheremmo, ecco, di avere una regola almeno a 3-5 anni che dici: guarda che tu entro i 3 anni non c'hai più contribuzione, non noi come costruttori di pannelli, il nostro cliente. Certo. Allora ci dovremmo adeguare per portare al nostro cliente un servizio tale che lo porti ad investire su questo, a capire qual è veramente il risultato che porta ottimizzazione alla cosa, perché se non ragioniamo in questi termini non ci siamo. Questo è un attacco, ma con tutta la bontà del signor Vittorio, la continuità è quella che blocca gli investimenti, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista morale, ma anche manageriale. Se lei c'ha un manager che lo mette in mezzo a 1000 progetti o un progetto, è la stessa cosa. Ma se quel progetto gli si ferma 6 volte, certo, quello se ne va. Ma non c'è dubbio, adesso la fermiamo perché abbiamo il traffico. Eccoci tornati in studio mentre ripartono i Doors. Oggi non vi ho fatto le mie osservazioni sulla stampa estera, ma voglio invece tornare in conclusione, prima di tornare al tema del giorno, con un pensiero a Laura Tamiozzo, che ha 29 anni, e con un pensiero non solo a lei, ma a Flavia Schiavon, che ne ha 32, a tutti i figli e le figlie di grandi, pochissimi grazie al cielo, ma tanti invece piccoli, imprenditori, artigiani e commercianti, troppi che in questo anno alle nostre spalle hanno preso una decisione estrema proprio per le difficoltà in cui stavano, per la crisi. Sia Laura che Flavia sono orfane di piccoli imprenditori che si sono uccisi negli ultimi mesi, e il pensiero torna anche a ieri, a chi si è dato fuoco di fronte all'Agenzia delle Entrate. Non la smetterò, molti di voi hanno mandato messaggi, oggi sono di toni molto più misurate rispetto ai tanti molto duri che mi sono stati riservati ieri, perché molti tra voi ritengono che sbagliamo a protestare contro il fisco, dicendo che dovremmo fare una dura campagna solo contro gli imprenditori che evadono, contro gli artigiani e i commercianti che evadono. Io credo che questa divisione debba cessare, io credo che tutti quanti dobbiamo essere d'accordo nel rimpadronirci alcuni diritti elementari che sono violati nel rapporto fiscale con lo Stato, e che in questo c'è una grande misura e grande civiltà, perché quando una crisi morde, perché ci sono fattori pluriennali su cui lavorare, tanti su cui lavorare, lo Stato non può pretendere in questo di dare regole e tempi certi solo per ciò che pretende di fissare lui in ciò che gli dobbiamo, mentre al contrario non ti paga manco morto, si prende per sé, ti entra nei conti, si prende quello che ha deciso di prendersi, mentre tu al contrario quando vai in credito non lo vedi e non puoi compensarlo. Ecco, queste sono le cose elementari di cui ci occupiamo noi qua, e lo facciamo perché siamo preoccupati del fatto che a non occuparsene alla fine lo Stato prenda solo sempre di più ciò che non si deve prendere. Quando la Corte di Cassazione ha prodotto una giurisprudenza che oramai il favor fisci è diventato il criterio di fondo, vuol dire che da cittadini si diventa schiavi, e lo dico col tono più raccolto rispetto a ieri, ma perché su questo intendiamo, io finché pro tempore sono qua, questo sarà il modo fino a che lo Stato non cambia. Colucci, arriviamo a fare una riflessione sulla qualità di questo governo e quello che lei immagina avvenga sui temi che Brandoni ci ha consegnato oggi la riflessione. Su questo conto energia e sulle rinnovabili, secondo lei erano meglio i governi politici e meglio il governo tecnico? Il governo tecnico c'è troppo poco per capire la differenza? Come stanno le cose? Che impressione ha? Beh, l'impressione è che il governo abbia poco tempo e si trova a scegliere, a fare delle scelte epocali di cui probabilmente di cui pagheranno le generazioni future se la bracciata fosse sbagliata. Quello che ripetiamo da tempo e purtroppo emerge da questa conversazione e anche dalla riflessione degli ascoltatori un attimo fa sulle reti, i quattro grandi temi: dipendenza dall'estero sull'importazione di prodotti petroliferi e parapetroliferi, costo delle tariffe elettriche più alte rispetto all'Europa, un mix di fonti ristretto perché abbiamo rinunciato al nucleare, bla bla bla, un'inesistenza di programmazione sul gap infrastrutturale che abbiamo, quindi pochi rigassificatori che non sono in grado di cogliere il meccanismo dello shale gas che sta cambiando il panorama mondiale del prezzo del gas, che potrebbe dare all'Italia enormi vantaggi, quando invece tutto il mondo sa che noi ci approvvigioniamo con contratti di lunga durata e non possiamo approfittare dei contratti spot che hanno dimezzato il prezzo, ma anche rete elettrica insufficiente. Allora, questo introduce un grande argomento: bisogna fare un piano energetico nazionale, lo sanno tutti, è noto a tutti, basterebbero 6 mesi. Tutti sanno tutto. La decisione, probabilmente gattopardesca, di cambiare tutto perché nulla cambi, non basta più. Ecco, ed è questa la ragione per cui Javier Brandone, che non è uno spaccamontagne rodomonte che ha annunciato le dimissioni, come alcuni di voi dicono, è uno che intendeva e intende attirare l'attenzione sul tema su cui Colucci ha concluso. O ci diamo una prospettiva di questo tipo, e le imprese devono esercitare anche la voice, non è che si devono tirare indietro dicendo guardate le cose non vanno, qua non si può fare gli investimenti, non è che si sta lamentando, sta semplicemente comunicando a tutti che un'intera filiera dice al paese o si cambia o si chiude. Appuntamento a domani, grazie a Brandone, grazie a Colucci. Grazie a voi.